denari, dammi la via. Dollaro ciao, euro ciao, franco svizzero ciao con la Rosciani e col Meazza. Sono un bravo investitor. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Io mi che proprio nei momenti di debolezza, di difficoltà, che bisogna trovare le soluzioni per emergere anche appunto da questi frangenti, da queste condizioni difficili. E proprio a questo ha pensato il gruppo GVS di Zola Predosa, provincia di Bologna. Buongiorno Mauro. Buongiorno Debora, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori, soprattutto alle ascoltatrici. Il gruppo GVS di Zola Predosa infatti è tra i maggiori produttori al mondo di mascherine di protezione e quindi in questo momento è, come verrebbe da dire, sugli scudi. Esatto, hanno non lo pensato. È ancora, in genere sugli scudi è una società che guadagna molto in borsa. Loro stanno pensando di quotarsi da un po' e a quanto pare i tempi si sono accelerati. Prevedono lo sbarco sul listino in primavera, sul listino di Piazza Affari, precisazione non irrilevante perché appunto hanno deciso di quotarsi in Italia. Gli advisor e i coordinator, insomma gli esperti che devono accompagnare questa operazione di presenza in borsa, di quotazione, stanno intanto continuando a lavorare, anche se un po' condizionati dall'emergenza, come tutta come gran parte d'Italia, tutto il nord Italia, dal coronavirus. Tra l'altro sai come si chiamano le maschere che produce questo gruppo? No. Prodotte da questo gruppo? Biohazard. Ecco, speriamo che non più l'azzardo morale finanziario, ma quello biologico. Magari io consiglierei una revisione del nome prima del debutto in borsa, però facciano, per carità, non mi permetto di entrare nelle vicende degli affari. Adesso questi advisor avranno ben altre questioni, dovranno valutare invece vicende più contabili. Però anche noi nel nostro piccolo oggi, Debora, insomma, cerchiamo di capire che fare. I mercati vanno su e giù come uno yo-yo. Sì, come l'ascensore e le scale. Allora, ti ricordi il 9 gennaio? C'era stato a trovarci un esperto che ci aveva detto: attenzione, che quando i mercati salgono prendono le scale, ma quando devono scendere si infilano in ascensore e tra-trac. Ecco qua, infatti, quello che stiamo vedendo in questi giorni. E allora noi che siamo cattivelli, ce lo siamo ricordati, esatto. Abbiamo richiamato qui lo stesso esperto. Che deve assumersi le sue responsabilità di quello che ha detto, infatti. E allora diamo il bentornato a Due di Denari a Enrico Vaccari, responsabile della clientela istituzionale di Consult Invest. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei non nega, non ripudia, non dice no, avete capito male, siete voi giornalisti. No, lei ha detto esattamente quella frase. Sì, è un adagio che funziona sempre in borsa, ma non era che fosse era solo una citazione che era utile perché i mercati nelle ultime settimane, quelle che hanno preceduto lo scoppio della crisi, sono saliti in maniera abbastanza immotivata. Sì. Non c'erano tanti motivi per fare nuovi record ogni giorno sulla borsa americana e anche le borse europee, dove il contesto economico è decisamente più difficile, continuavano a salire sull'onda di una Wall Street così euforica. Credo che questo alla fine l'abbiamo pagato e quindi questa salita eccessiva che è stata fatta prima, oggi abbiamo visto questa correzione. Allora sono passati un po' tutti all'incasso e quindi avrete capito che essendo oggi giovedì chiaramente abbiamo rispettato la scadenza settimanale con Investire Informati. Ed oltre a Enrico Vaccari sarà con noi Donatella Principe, Director Market di Fidelity International. E quindi se volete avere qualche analisi un po' più personalizzata rispetto all'andamento dei mercati finanziari, qualche curiosità personale su quello che stiamo vedendo in movimento in questi giorni, ovviamente potete utilizzare i canali di sempre. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Ci scrive già un ascoltatore che vuole che ripetiamo il nome dell'azienda che verrà quotata. Non lo sappiamo ancora se lo fa, ma prevede il suo sbarco a Piazza Affari in primavera. La società è GVS di Zola Predosa, che è tra i maggiori produttori al mondo di mascherine di protezione. Vediamo, probabilmente questo nostro ascoltatore vuole già prenotarsi in qualche modo quando ci sarà l'iniziale offerta di azioni in borsa, l'IPO, esattamente. Non mi veniva la sigla giusta e non ma volevo io sono qua per usarne questo, ma per questo che funziona la conduzione a due, Mauro, perché quando uno è un po' così in defiance interviene l'altro a sostegno e lo soccorre, ma magari sempre tutta la vita. Allora, dunque, Fatta tutta questa premessa, sì, però un po' di giornale radio del risparmio, cara Deborah, sì, io vorrei farlo, sempre c'è un po' di tinta coronavirus anche in questo giornale del risparmio di oggi. Un GRR virus. Sì, un GR del virus, però, però cerchiamo di trovare anche delle cose legate più, come sempre, ai temi canonici di due di denari, quindi il lavoro, il risparmio, gli investimenti, qualche volta anche, ohimè, le tasse. Giornale radio del risparmio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Sì, è diventato il grande tema del momento. Oltre al coronavirus, in seconda posizione il netto ribasso dei mercati finanziari e delle ricadute economiche, terzo posto in graduatoria lo smart working. Smart working o lavoro agile, perché avrebbe anche un nome in italiano, però effettivamente lo conosciamo tutti come smart working, lavoro furbo verrebbe da dire, ma la sostanza è lavoro non dalla sede, ma non altrove. Dire così, che già in molti lo concepiscono così. Come non lavoro? Esatto. Infatti, no, furbo nel senso di un lavoro che può essere svolto non dalla sede e non anche fuori dalla sede, ma in una postazione definita. Quello è il telelavoro, cioè l'azienda mette a disposizione proprio una postazione che viene realizzata praticamente come se fosse la postazione di lavoro trasferita altrove. Lo smart working potrebbe effettivamente, e ci stiamo interrogando in questi giorni, perché è stata disposta una sorta di facilitazione complessiva fino al 15 marzo, ne abbiamo parlato ieri diffusamente, trovate la nostra puntata sul sito di Radio 24, www.radio24.it, se volete sapere tutto su questo smart working di tipo straordinario, uno smart working sanitario che è possibile da ieri fino al 15 di marzo. Però normalmente lo smart working è uno strumento, il lavoro agile, che risulta interessante, promettente per quanto riguarda le nuove modalità di lavoro. Allora oggi presentiamo ad esempio sul Sole 24 Ore a pagina 6, Giorgio Pogliotti ci racconta di uno studio dei consulenti del lavoro che stimano in 8 milioni di dipendenti le persone potenzialmente interessate o interessabili dallo smart working. Poi non è detto che tutti questi 8 milioni naturalmente passino a modalità di lavoro agile, quindi lavorando da altrove rispetto alla sede di lavoro, però questa fase, almeno così, di disagi, di cambiamenti dovuta al virus, ci sta facendo interrogare più da vicino sulle opportunità di questo strumento. Allora, sappi che io e te non possiamo farlo, a meno che non ci portiamo un bello studio radiofonico a casa, ma credo che la qualità non ci sarà... portiamo pure Marco Lombardo. Sarebbe difficilmente replicabile. No, guarda che lui c'ha il bambino piccolo a casa, quindi lui da remoto dovrebbe farci da badante come tutte le mattine. Ma quindi ognuno per sé, non mi è chiaro come funzionerebbe. No, noi rimaniamo qua, facciamo una cosa, non ammaliamoci, stiamo qua tranquilli, speriamo che tutto questo passi presto e che ci sia un dibattito anche intelligente e responsabile intorno allo strumento dello smart working. Smart working, mi ci è venuta la T in mezzo. Senti, invece, allora, ritorniamo anche su altri grandi cavalli di battaglia di due di denari, vale a dire i serpenti corallo che circolano su web. Sapete che abbiamo parlato molto spesso di tutte quelle frodi che si consumano online e ci sono molti casi in cui veniamo raggiunti da fantomatici operatori finanziari via telefonica che ci propongono degli investimenti con rendimenti, con promesse di rendimento stratosferico, e purtroppo molti ci cadono. Allora, da qualche mese la Consob ha dei poteri rafforzati per oscurare questi siti dove è possibile appunto investire facendo delle operazioni di trading online. Pensate che da 8 mesi sono stati chiusi 154 siti abusivi, più di 20 al mese, se si considerano anche i 7 di cui era già stato chiesto l'oscuramento in una fase precedente a questo rafforzamento di poteri che era arrivato luglio scorso con appunto un provvedimento apposito. Il decreto crescita aveva previsto appunto questo rafforzamento di poteri per l'autorità di vigilanza sui mercati, ed è arrivato poi un'implementazione ulteriore con il decreto mille proroghe approvato ieri definitivamente dal Senato. Questi poteri sono stati confermati e ulteriormente rafforzati, e adesso, come ci racconta Marco Mobidi sul Sole 24 Ore questa mattina, sono diventati interdittivi grazie alla possibilità di poter chiedere direttamente ai fornitori di connettività, operatori telefonici che consentono l'accesso alla rete internet, l'inibizione dei siti web in odore di frode. L'obiettivo è, come spiega Mobidi, rafforzare la vigilanza e aumentare la possibilità di chiudere siti abusivi. Naturalmente la prima cosa da fare è non rispondere mai a tutte queste persone che ci chiamano, non collegarsi su questi siti, e soprattutto nel caso in cui ci arrivi qualche offerta strana da questi operatori, andare a controllare, perché sul web trovate, anche prima di andarvi a collegare a loro, informazioni sul fatto che non operano sicuramente correttamente. Esatto, perché magari questo serpente corallo in particolare ha già morso qualcuno e questo qualcuno l'ha detto nel web. Attenzione anche, aggiungo, ai messaggi che arrivano quando guardiamo i social, perché spesso veniamo raggiunti da questo tipo di messaggi, appunto sembrano pubblicitari ma poi in realtà nascondono poi delle frodi, quando siamo su Facebook, su Twitter, insomma quando abbiamo siamo a contatto con i social e l'algoritmo ci traccia, sa magari che abbiamo consultato qualche sito che parla di soldi, di risparmi, e ci arrivano anche queste offerte fraudolente. Intanto funziona a pieno ritmo l'attività dell'arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob. C'è stata una decisione molto importante negli ultimi giorni e che sicuramente prossimamente noi torneremo ad approfondire quando potremo ripristinare anche una certa regolarità negli argomenti trattati a due di denari, appunto una volta tolto di mezzo questo coronavirus. Praticamente l'ultima decisione è stata a vantaggio di una famiglia di azionisti della Banca Popolare di Bari, per i quali è stato riconosciuto il risarcimento integrale dei loro investimenti. La notizia è stata comunicata nei giorni scorsi da Consumer Italia, l'associazione dei consumatori che inizia con la K. Questa vicenda è stata seguita direttamente dall'avvocato Massimo Melpignano, ne ha scritto anche ieri il Sole 24 Ore. Peraltro ieri l'avvocato Melpignano ha anche incontrato i commissari, appunto, della Popolare di Bari, che guidano in questo momento l'istituto, perché si sta cercando di capire in che modalità e in che misura possono essere indennizzati i risparmiatori considerati più deboli di tutta questa vicenda, perché a parte chi in genere investe perché magari cerca un guadagno un pochino più consistente rispetto a quello che ha già in portafoglio, qua ci sono invece persone che si sono ritrovate in possesso di azioni e obbligazioni della Popolare di Bari, perché anche in questo caso magari sottoscritte con la modalità della baciata: ti do un mutuo, ti do un prestito a patto che tu sottoscriva un'azione della banca, un'obbligazione della banca. Quindi anche di questa vicenda torneremo sicuramente a parlare prossimamente. E allora un altro aggiornamento su una vicenda storicamente nota agli ascoltatori di Due di Denari: i diamanti da investimento, perché un'altra associazione di consumatori, Codici, ha annunciato l'avvio della restituzione delle pietre, restituzione a partire dal 3 marzo 2020 per tutti coloro che hanno già ottenuto il provvedimento di restituzione emesso dal giudice. Questa procedura, spiega l'associazione Codici, coinvolgerà in prima persona istituti come Unicredit, Banco BPM, Banca Aletti, per il tramite della capogruppo Banco BPM. Questi si faranno garanti del ritiro dei plichi e della loro restituzione agli intestatari. Più di 28.000 consumatori sono quelli che hanno conquistato i diamanti dalla IDB, International Diamond Business, e li hanno lasciati in deposito nei caveau indicati dalla società. E l'associazione Codici, appunto, ha segnalato l'avvio di questa operazione di restituzione. Sapete che il tema è stato affrontato più volte da noi, da Deborah e da me, qui a Due di Denari, anche con il sostegno delle associazioni, degli avvocati che si sono occupati e si occupano della materia. Quindi monitoreremo anche da settimana prossima questo ulteriore evolversi della vicenda. Allora, andiamo piano piano verso l'argomento di giornata. Come avete avuto modo di constatare in questi giorni, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad essere altissima. Anche oggi abbiamo cali molto diffusi e importanti fra listini continentali: meno 2% a Milano, meno 1,80% a Parigi, meno 2% a Francoforte, meno 1,66% Londra. Il Belgio, una piazza piccolina, 20 titoli quotati sul paniere principale, ma perde quasi 3 punti. Ieri sera altri cali a Wall Street, con l'unica eccezione del Nasdaq. Stamattina un piccolo recupero dei listini cinesi: Tokyo meno 2,13%. Che succede? Le preoccupazioni le conosciamo. Il punto è mercati finanziari che cercano di quantificare quale sarà l'impatto economico globale di questa epidemia di questi giorni. Ma noi oggi, più che analizzare quello che succede, proveremo a fornire un manuale antipanico per i risparmiatori, perché è bene anche tenersi distaccati per quanto più possibile dalle notizie quotidiane. E quindi come proteggersi in questa fase? Sicuramente, ma anche paradossalmente, Mauro, proviamo anche a cercare di capire se ci sono delle opportunità di investimento in frangenti come questo. Riorganizzando il portafoglio, come si fa? Ottenendo la barra dritta sui propri obiettivi finanziari,